sapeva anche tacere. Morde non farà male. Ha detto vado via, cerco un po' di compagnia, non c'è troppo sole e non si vive di parole. L'ho visto andare via, brillava d'allegria, con gli occhi in sorriso.